10. Attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto? Ondulare come un pezzo. Ondulare. Ora attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Q10. Io cerco un certo Natalino. E cosa vuole lei da questo Natalino? Non lo so, esaurito, di là. E allora si è rivolto alla persona sbagliata. E io so che ce l'hai sotto al mattone, Natalino. Dimmi che era un mattone, che io non lo so. Quello che ci muove. Non l'hai ancora trovato, non c'è andato alle bancarelle, Natalino. Ehi, ma io sono in capo. Ah, ieri notte sono andato al concerto, era troppo bello. Mi c'era per il tempo, mi ha fatto bisciare del risato. No, sono andato da nessuna parte, a parte che non mi sento bene, che sono tutto influenzato. Altro che concerto. Me l'ho fatta, era una bella camminata, Sono andato più avanti di Marco Combo, dove abita Marco. L'ho messa lì la macchina, perché non si trovava parcheggio da nessuna parte. Io come facevo ad andare, anche se mi sentivo bene, come facevo ad andare che non fosse un camminato? Quello. E vabbè, magari andando in due, ti lasciano prima, poi l'altro va a cercare il parcheggio, vi trovate in un punto, capito? Sì, ho capito solo che non è organizzata la cosa. Purtroppo io sono da solo e nessuno viene a pigliarmi, cosa tuia. Passamo verde. Ehi, Natalino, ti volevo dire, e poi il fatto però che devi stare in piedi, quello è, non mi ha attaccato a me, mi facevano male i reni alla fine della serata. Sono andato a girarmi, stavo per prendere l'equilibrio, perché ero sempre fermo nella stessa posizione, non perché io ho trovato una buona posizione, davanti al palco c'erano le transenne, mi appoggiavo sulle transenne e quindi un po' mi riposavo, capito? Ma io così tanto in piedi non ci posso stare, che dopo mi viene il dolore al femore ed è peggio andare al buio. Lo so, comunque c'erano i Barit, c'erano i Bertas, c'erano i Collage, c'erano un sacco di complici. I Tazen hanno dato buca. Vuol dire che non l'hanno imbagati abbastanza. Sì, ma c'erano nel programma c'erano anche Tazenda, però non ci sono venuti, capito? A quanto pare dice che erano fuori, ma uno se si prende un impegno qua non va fuori. Lo so. Io stavo aspettando, c'era Valerio Scano pure, quello che ha vinto il festival di 2 anni fa, mi pare, dell'anno scorso. Valerio Scano, quello della Maddalena, ha tolto il mito che dicevano che lui aveva detto che non era sardo, che lui era della Maddalena, che non apparteneva alla Sardegna. Lui ha detto che queste cose non le ha mai dette, che l'hanno fatto solo per buttare fango su di lui. E poi anche se non è della Maddalena, la Maddalena non è saglia. Ma i maddalenini, sai cosa dicono? Che è staccata dalla Sardegna e quindi praticamente non appartiene alla Sardegna. Cosa dicono i maddalenini? Guarda che io c'avevo una zia e c'ho parenti alla Maddalena. Non lo so, non ne ho mai sentito di queste cose io. Lo so, ma dicono così. Io ho sentito che dicono così, poi se balla è balla di Giugurizzetti. Secondo me sono cavolati. Ma no, già se la tirano in maddalenina a tutti i diti. Già se la tirano un po'. Ma io ci ho anche dormito da casa di mia zia alla Maddalena. Spende 20 dollari per un... Ma non ne ho mai sentito che ce la tirano per questo e quell'altro. Dai, so, come se noi, uguali. Anzi, ci sono i corsi addirittura che dicono di essere italiani e che non si vogliono francesi. Dimmi due, va. Invece sono francesi. Io una volta sono andato a consegnare in una nave, c'erano quelle ragazze che fanno i denti delle navi, no, quelle francesi, una nave francese. Sono entrato io, bonjour à tout le monde, tutto il ridere le ho fatte. Vabbè, comunque i corsi si sentono italiani perché la corsi che è stata truffata dalla Francia all'Italia, hai capito? Con una truffa è stata presa. Ma parlano tutti francese, come mai? Io di cui fa vedere tutti canti, un gallurese fa vedere, che il dialetto corso è un gallurese bastardo. E io lo capisco benissimo, se tu fa vedi il sassarese ti comprendi, non so che tu che dici. Ti comprendi? C'avevo anche i dischi in corso io. E parlavano e cantavano in gallurese praticamente. Sì, sì, è vero, hanno tipo quella quell'accento di gallurese, sì, è vero. E loro si sentono truffati, nel senso che la Corsica è stata presa con una truffa dalla Francia e non è stata pagata all'Italia. E gli italiani ce l'hanno fatta tutti. E Giubareggi? Come al solito siamo i polacciotti. Ma chi su? Le gallurese sono più marichisissimi. Gli disagimi. A chi a Savibone ne ha punti la bomba in cui ha fatto già sai maschio. I corsi, sì, i corsi, sì. Io mi ricordo un amico che lavorava in Corsica. Praticamente gli hanno detto se faceva il custode, oltre che fare lui praticamente era carpentiere, l'ha pagato bene anche, mi pare davano 110 euro al giorno. E praticamente gli hanno detto se vorremmo fare anche il custode, visto che lui non aveva dove andare a dormire, doveva pagare, ha detto va bene, a me non c'è problema. Si è avvicinato uno una notte e gli ha detto se non vuoi saltare domani notte non ci devi essere, perché se ci sei salta anche tu. Siccome era un'impresa di Sassari e gli hanno fatto brincare un cantiere quasi finito, Lo dici se compitato mari bravissimi costruiti compreso fatemi così ragazzi compitato mari e hanno dato il travaglio a ricorsi. Mio zio lavorava lì come falegname, zio Peppino, il fratello di mamma, ma quando c'erano ancora i franchi, infatti mi aveva portato anche i soldi francesi da lì. Ella era un'impresa tutta di Sassari, capito? C'erano tutti i sassaresi. Ma lui lavorava lì da parecchi anni, lavorava da, per una ditta francese, lavorava lui, d'accordami. A chi ricorsi noi erano i rifiniti come gli operai. Erano portesi, no? E mio zio lo trattavano in palma di mano. Sì, aspetta che c'è una chiamata, avanti l'attenzione. Già ti sento, Cibru, già ti sento. Diciamo adesso il segnale anche. È Natalino, Santiago 8-9, la radio 4. Con la festa Sassari ti andrà a Portotorre. Che c'è la festa Sassari tu resti andando a Portotorre. Ho capito. Bruno, Bruno Uragano, arriva a 8:30-9 qua. E qua non arriva però. Lui dove sei diretto al porto? Gente pescando, non ce n'è. Già lo so, non si è mai potuto pescare, ma la gente pescava lo stesso. Una volta mi ero trovato i carabinieri, volevo prendere tutto il pescato e l'attrezzatura. Dove c'è il passetto non si può più entrare. E tu è un casino, non si può più andare da nessuna parte, tranne che dalla spiaggia, dalle rocce non si può più pescare. E al porto si prendevano belle orate, adesso si staranno praticamente accumulando tutto perché sanno che non le pescano. si riesce a entrare e fa man bassa. Sono più di vino, con i vecchi che sono lampendi, non va più punta già, l'hanno lasciato tutto. Perché lì dove andavo a pescare io, lì arrivo, come si chiama? Arrivo Punta Bianca, lì dove si ferma a Franco sempre, lì stavo mettendo parametri, reti, di tutto di più. Prima pescavo bene, io la notte andavo pescavo bene. E adesso non c'è più nulla, li ho visti io mettendo le reti vicino a riva. E qua si ritrovano, ci deve essere una certa distanza, perché altrimenti le bubone in riva dove ci vale il bagnato. Ci sono quei denti che vanno in terra e reti, giù visti io lampendi. Infatti se tu lampentivi non vuoi più nulla. E via, via, vabbè. Prudocchio, dove sei? Attenzione, uragano, uragano, mi ascolti, cambio, passo. Sì, dimmi. Ehi, facendo il tutto, addirittura. No, no, non sono con l'apparecchio normale. Cappa. Un giorno che vieni da Aldo ti faccio vedere la stazione. Ma quale antenne ricevono bene? Se io te l'ho consigliata è perché so che va bene. Mettiti dove c'è la chiesa di Balai di fronte, quel parcheggio di fronte, lì prende bene. Io arrivavo a fronte a Sasse, sei Santiago Novo, mi qua a casa. Via, avanti Natalizio. Lineare Gianni. Avanti, chi è? Ho detto spegni il lineare. Non è un lineare. Capo, dai. Ciao Gianni. Franco. Ciao Fra. Vabbè. No, non è un lineare. Facendo col capo. Io spegnete malacchina, dai. Capo, dai, no, stavo scherzando. Ciao a tutti comunque, dai. Ciao Tino. Ciao anche all'amico mio Paolo Torres. Ci sentiamo. Buonasera. Ciao Tino, ciao, ben sentito. Buonasera anche a te. Ciao a tutti, ciao. Non so chi c'è, sono appena entrato. Io, Natalino, Bruno, la Platamona e poi tu e Franco. No, non metto più che sto facendo cosa già, riprendete voi, dai. Ehi, Afra, come ti sta arrivando lì a Sussu? 9:20. Oh già, sei forte, ma è il rumore di alternata, Ciao, lo so, perché il microfono adesso c'è. No, adesso no. E il microfono, come lo metto vicino all'apparecchio, fa questo rumore, è strano. Però se me lo metto sulla gamba oppure sul letto, cosa non ne fa più? Andare. C'è la gamba. Avanti Natalino. Un attimo che sto prendendo delle medicine già, rientro subito. Via. Tino, vabbè, non sei andato in giro oggi. Oggi già, non ho già fatto nulla. Io ieri notte sono andato a vedere il concerto in Piazza d'Italia, era bello. No, sono organizzato qua a casa e niente di che, non sono uscito oggi. Sì, vabbè, stava piovendo, era la battuta. Stava piovendo a dirotto oggi, anche la cavalcata è andata male. Adesso sembra una presa in giro, stasera c'è il sole. Stamattina ne era male di l'aria, che tutta la gente persone hanno perso tutto, la sfilata, e quelli che vendono nelle bancarelle, se saranno tutti ritirati, come ti hanno visto da qua, sono tutti ritirati, non ci sarà più la bancarella, va? È così. Tu pensa che ieri mi ha fatto un lavoretto per il conto mio, a ora di pranzo è iniziato a piovere, è scesa una bomba d'acqua, che per carità, cosa vuoi farci? Purtroppo è così. Stavo guardando internet, ci sono allagamenti a tutte le parti, Monlannaro, come si chiama, Mosa, tutta quella zona lì, tutto allagamenti. A Mosa c'era una scalinata lunga e si è trasformata in una cascata. Se vedete come scende l'acqua da queste scalinate. È così. Dimmi una cosa, che radio stai usando? Il cazzo. Buono, ottimo direi. Ah, vero ragazzi. E niente. La radio bene fatti. Sì, però non devi urlare, quindi statene da una certa distanza e parla tranquillamente, già è abbastanza forte. Guardami il segnale mio. Provo a parlare che non so guardare. Vedi un po' se sono in positivo, più che altro mi interessa, il segnale dove arriva. Ora. 9.40. Buongiorno ragazzi. Va bene. Dino già sei in positivo. Ascoltate Luidio qua. Ciao Luidio. Positivo Cavallo, dai. Ma sta lavorando anche di domenica. E poi si scopre che non è vero. Positivo, dai. Se mi ascolti, dai, non so dove sei. Va a finire qua, non prega niente. Va, voglia. Non so se arrivo ora le vostre parti. Sì, andrà 6:10, buono. Io ti arrivo due video. Lui a fare due quattro di smetta. Ma la gara. Vabbè. Comunque adesso mi. Cioè, fa una bella giornata che non piove. Un giretto alle bancare le vado a fare io. Solo che ieri mi sono proprio grebbato, ho trovato il parcheggio in via Nizza, perché non c'era un parcheggio tutto a Sassari. Ho girato, rigirato, sono stato mezz'ora girando, alla fine sono salito verso il su e via Nizza, per fortuna uno l'ho trovato, uno, ma era tutto pieno. Mi posso immaginare, c'è una cosa di gente. No, io non sono neanche uscito, tanto ho visto le previsioni meteo, ho detto è inutile andare per poi, insomma, cercare di ripararmi da sotto la pioggia. va bene, Natale. Boia. Tu invece non sei uscito per niente, no? Negativo, lo sai, civico. Oddì, ti dirò che non è che ha piovuto così tanto, qualche spruzzatina ma leggera, io c'avevo il cappuccio, mi mettevo il cappuccio quando spruzzava, ma quasi tutto il concerto si è fatto vedere bene. Vabbè, il concerto ieri sì, ma io parlo di oggi. Ha migliorato il segnale adesso, guardate un po'. Migliorato, la parte mia è migliorato. Positivo. 9.25 pieno con picchi positivi, quindi più che bene. La radio va bene, buona. A posto. Avanti signor Natale. Io vi devo lasciare purtroppo che devo mangiare, là ci sentiamo alle prossime. Dopo una piccola interruzione. Ci sei? Allora me c'è Santiago 9, va benissimo qua, però la radio non è molto alta, a te bisogna procurarti un microfono che vada bene, così almeno ti dà quel tocco in più. Aspetta, ciao Matteo, ci sentiamo, dai, alle prossime. Io già ce l'ho un apparecchio serio, te lo sto vendendo, se ti interessa. Poi tu sei rimasto al video di mia nonna, il 2009 non ti piace, cazzo l'apparecchio che tutti portano in alto, sto dando un 2009 con microfono amplificato, se ti interessa. Quanto lo vendi? 150. Nuovo è però, nuovo di zecca, con scatole e tutto. Vabbè Bru, io te l'ho detto, poveri tu. Beh, io cioè, lo sto vedendo così per fare spazio, perché devo mettere una tapparicchia. Però un po' mi duole a venderlo, perché nuovo, l'ho avuto solo io, ce l'ho con la garanzia e con tutto. Però voglio metterci una tapparicchia lì e basta. Vabbè, avanti ti. Sì, già va bene quella apparecchio lì. Che vabbè, sentimenti e tutti questi veicolari, insomma, ci vuole un po' di spazio. Ma è bello che io ho uno, due, tre stazioni base, più due veicolari e più uno che uso per la macchina. E io dico, se mi mettono a mettere tutti i veicolari che ho, non basta più il posto, ma più che altro ce l'ho perché mi piacciono e vabbè, poi se mi si guasta, dovesse guastare qualcuno magari nel campo, una cosa là, lo sostituisco, però gli altri sono tutti conservati. Ma io ti c'ho i ripiani, capito? C'ho i ripiani dove metterli, c'ho il posto, non mi piace a me averli in più, non mi piace, mi piace avere le stazioni in più, non li voglio. E per quello che lo sto andando anche un Royce, se interessa a qualcuno, sto andando anche un Royce. Capito, no, un Royce, vabbè, di quelle radio lì. Ne ho, se le voglio ne ho a provare, ne ho, ma non ne frega niente, le ho già provate, non è una cosa, un articolo che mi piace, io uso così per bellezza. Ma lui se il signor Apparizio esce anche bene, se gli metti il microfono suo te lo faccio sentire come esce. Se metti il microfono suo io gli ho messo la stacchi, che cazzo esce una bomba. L'ho provato. No, voglio provare così. Il mio caro è attaccato a me, non vuole andare. Ma spero che lo attacco, tanto sono una volta che non lo sto facendo girare. Fai girare per gli altri. C'è l'amico da Daniela, poi c'è anche Bruno, Natalina sta mangiando, Franco anche, se rientra. E io sono qua, dai. È un po' di sicuro, sono qua sul camion, arrivate tutti in una schioppettata. Sì, siamo vicini, dai, siamo tutti vicini a Predanieta. Io sarò, credo, 4-5 chilometri. Infatti arrivi benissimo, sei lì dentro il mio camion. Sì, non in linea d'aria, 4-5 chilometri stradali parlo. Positivo, dai. Ti siamo ricordo. Tu sembri che sei qua a fianco a me, quindi tranquillo. Cambio radio, dai. Positivo, dai. Attento Tino Muscolo. Ha detto che sono cambiato radio. Questo qua è lui su stazione base. È bello, si bene. Cava. Ed è bello l'apparecchio pure. È un peccato perché io non c'ho posto, dovevo metterci altra roba e non c'ho posto. E lo sto dando 200 euro questo qua, ma è un apparecchio che ci vale, ne vale anche 300. Sto male. Eccomi. No, ho dovuto cambiare il mic anche perché non era compatibile l'altro. Sì, già, lo conosco la radio, ma avevo pensato a Walter, giusto qua in casa per provarlo. È una bella radio, ha i suoi anni, però è una bella radio. A me è piaciuta subito quando l'ho vista, me l'ho presa subito perché questa era di un collezionista e ne aveva tante altre in vetrina come queste. Questa non c'ha un graffio, è tutta perfetta, tutte le parti sue, sia in legno che in ferro, sono tutte perfette, non hanno un graffio. Questo l'ha usato poco, lui l'ha messo in vetrina solo per, diciamo, per avvenire. Poi è diventato radioamatore, stava comprando altri apparecchi, qui stava venendo questi. Mentre se te ne servono altri, mi ha mandato tutta la filastrocca degli apparecchi che aveva, ma non me ne interessava, a me mi interessava questo perché mi piaceva, gli altri non è che mi piacevano più di tanto, perché a me devono anche piacere gli apparecchi. Ehi, bene, e con questo come mi ascolti? Ti ascolto bene. Ho un microfono in perdita, ho provato, per quello lo stavo attaccando, perché utilizzando la voce sul riscalda va in piedi, cioè va a perdere l'amplificazione. Beh, allora ho dovuto attaccare l'altro in questa radio. Il Royce con la static. Sì, però ti ho preso per un po', Adesso non sta facendo bene la massa al mic. No, devo abbassare la radio forse perché è troppo alta. Guarda adesso. Sì, adesso si è andato bene, però c'è stato un momento che non si sente il radio. Perché la statica che c'ha questo maledetto microfono che ha il tasto quadrato che ti entra nel dito, solo quello è brutto. Ti entra nel dito, a volte la forza molla, capito? Quindi non riesce a schiacciarlo bene. Va bene, ragazzi, io mi devo toccare. Adesso devo fare due cose al PC, quindi devo passare il volume e devo concentrare un attimino qua, dai. Ci sentiamo, se coincide più tardi. Salutini a tutti. Ehi, Bruno, vai avanti. Ma a me stai dicendo che sì, Bruno? Vabbè, sono ancora più giù di Gianni, dai. Zona, per farti capire, zona fianco la polce, dai. Bella forza, qua mi arrivi Santiago 9, la radio è un po' bassina, però già riesco a prenderti fuori. Non so se c'è una tagliata più di no, perché doveva fare carica, e quindi ho salutato poc'anzi. Ok, dai già, riprendi tu e fai girare, io devo allontanarmi. Gianni sta sicuramente cambiando radio. Va bene, ciao a tutti, ciao. Ciao anche l'amico di Pedanieda, se mi ascolta. Non ho capito il nominativo, il suo nome. Luigio, ora Luigio qua, Luigio. Luigio, ciao Luigio, vai, me l'ha ascoltato per la primiera. Ti conosco da questa parte. Va bene, ci sentiamo, ciao ciao. Capa del rocchio, dai, ciao. Attento, Bruno Uragano, mi ascolti, cambio. Sto uscendo, adesso sto uscendo con quell'apparato che sto vendendo, quello 3009. Come mi ascolti? No, questo qui è un amplificato, è un amplificato della Midland, l'F100, non so se lo conosci. Beh, ogni microfono ha le sue prerogative, dai, bravo. Comunque va bene, dai, dai. Dove sei tu? A tutti quella che ti trovo là, è chiaro che non c'è la differenza. Dove trovo? Mi ascolto, amico. Guarda, lì è zona d'ombra, poi fusta, non era solo è zona d'ombra. Guarda adesso che ho messo un tantino di eco, come va? Non è che la radio abbia cambiato molto, soltanto che questo eco viene messo un po' di amplificazione, un po' la distrutta, capito? Cioè la parte di una radio non voglio dire distrutta, capito? È come il discorso del microfono originale, il microfono normale, il microfono amplificato, quella è la differenza, nel senso di un microfono in piedi, però poi la volta di quell'altra e questo è più pancata, non si può andare. Questo qua è il microfono della Midland, è bellissimo, costava anche questo microfono, sulle 70 euro costava. Io non ce l'ho fatto, però io sto dicendo che quello di affariggiarli è questo solo. Attento, amico, mi ascolti a me. Perché non c'è solo la cittadina, a me non va bene, non funziona così. Non mi ascolto. Guarda che quando grigio sono gli affari gialli e il cursore. No, non è grigio. Si chiama l'F100, non c'è da sbagliare. Avanti l'amico di Predanieda. Vogliamo amico se mi ascolta, dai. No, non ascolti l'amico da Predanieda. Ma è stato troppo saturo, ho capito. Anche perché sono in campagna, qua vedo le tasche, sta abbassando. Ma non è saturo, perché io sono a due passi da lui, lo sento benissimo. Forte sì, ma non saturo. No, per me va benissimo. Okay. Questo è il 3009, questo che sto provando adesso. Ti piace come esce? Sì, però ogni tanto tendiamo anche il radio. Perché non premo bene il microfono? C'ho il dito che mi va di male, a furia di premere quell'altro microfono della Static, che c'ha il PTT che è quadrato, ti centra dritto all'udito, ti va di venire due ore e l'altro mondo. Infatti l'ho cambiato l'apparato adesso. Questo qua sicuramente è il PTT un po' sporco perché fa... Probabilmente era un po' che non lo usavo, capito? è un po' che non lo stavo usando, ogni tanto bisogna accendere gli apparecchi, se no se vanno a male. Teniamo anche il radio, dai. Allora, amico, adesso non ricordo il nominativo, mi ascolta male? No, non è che mi ascolto male, è rotto molto spalato, probabilmente era per me non si è sentito, e allora la radio forte, la radio bella, no? Anche come segnale. Io la radio modificata, capito? Quando si saturo io vedo un segnale forte, ma c'è momenti che riesco a capire poco, dai. Se ti metti questo qua in macchina vedrai che esci bene, c'ha bande laterali e tutto, questo FM e tutto. Che lucellino che fa bip, c'è? Cosa? C'è anche lucellino che fa bip. Sì. Non so cosa fare, l'ho piazzato due giorni, ma me l'ha regalato un amico con i triasso lì. Mamma mia, ho cominciato a fare il rumore di pipì, gli sono bucato su buca. Io c'è Antonello sicuramente, perché lui c'ha la mania dei bipi. No, ma l'ha regalato Marino veramente. Marino. Piazzato, l'ha piazzato, ma poi alla fine ha rotto la vista, l'ha bucato subito. Ma è esterno? Sì, sì, è esterno. E beh, esterno, il bip esterno dove l'ho con lì? Devi togliere il microfono, metterlo su questo apparecchio e l'attacco del microfono va da un'altra parte, no? Diciamo che questo bypass l'ho provato, ma faceva tante cose, faceva il bip e poi storceva la voce. Però se dico la verità, poi mi ha stancato tutto, mi ha allungato. Sono giochetti e si facevano prima. Sono giochetti brucoli lì. Comunque la radio esce bene, dai, dai. L'hai sentito? Questo qui è quello che sto vendendo. Sì, vabbè, siamo vicini, eh. Io sono quasi arrivato a casa, per cui c'è una poca gente di rete. Ma io sono con 4 watt, mi sto uscendo. Sì, 4 watt, magari c'è qualche pillolina sotto. No, no, no, assolutamente. Guarda, adesso c'è, guarda come va, mangio un trifor. Non lo so perché mai non ho fatto le cose, io so questo cavolo di smitter che ho io, in certo momento, non è uno smitter di quelli a smitter appunto, questo qui è quello digitale che fa schifo e non è neanche molto sensibile, non è molto preciso, dai, perché ha quei led, Lima Delta One, Lima. Qua è tutto, non è digitale, dai, dai, è tutto ad ago. Beh, si vede bene i segnali. Buttalo via, buttalo via. Se vuoi ti dico dove vado a buttarlo, così vai a raccoglierlo. Buttalo via, ciao Gianni, ciao Bruno, buonasera. Ciao Fra. Chi è questo verde sul fondo? Chi è? Bruno, buttalo via adesso, se non funziona. Mettelo per aereo. Gianni, chi è questo qui? Mi arriva basso basso. Frank. Cosa c'è? Che portate? No, tu c'è lavorato in mille di gomma. Ciao Bruno, buonasera. L'ha ascoltato. Sì, mi sono arrivato adesso a casa, questo sono qui. Era professore, sparito, pantalone. Ecco questo, rientrato, in garage. No, adesso vado a farmi un girassesso alla bancarella, ma c'è un casino che non ti dico. No, non ne voglio neanche sentire qua. Io me ne sono andato qui a produttore, potevo andare, non avevo voglia di mettermi in qualcuno al casino. Poi ho detto magari si mette a piovere. Stasera, giusto? A farmi in diretta, ma c'è troppo casino, capito? Quindi non fa. Infatti me ne sono rientrato qua. Troppa gente per stare in piedi, camminare, io qui. No, il problema, sa cos'è il problema maggiore? Che non trovi parcheggio. Adesso io sarei andato in moto, ma se tu lasci la moto parcheggiata da qualche parte, magari c'è la rovina, c'è la ruba, ho paura. Ma se non c'è trovato parcheggio, magari a una certa età, a una certa ora, che ne so, alle 11 a mezzanotte sarei salito, perché qualche volta ho fatto così alle 11 a mezzanotte, quelle bancarelle là dove si mangia, si beve, c'è quella roba all'ostebus. Io dovrei mettere la macchina praticamente vicino all'INA, parcheggiata lì, e poi il resto tutto a piedi. Io invece ieri notte l'ho trovata, sai dove fra, in via Nizza. Sei stato fortunato. Cazzo, ha giù fatto, vabbè, farata non ce ne abbiamo, ma da buia sta. L'uomo ha giù fatto tutto a piedi, ha fatto tutte le bancarelle, l'emiciclo, poi sono salito su vicino ai giardini, poi via Giorgia Sprone, tutta la Baradan di Sassari, Piazza d'Italia, tutta a porta. No, io ieri sono andato a vedere il concerto. C'erano ballissardi, sono salito in tribuna, però poi sono arrivato a poco e non sono andato. Poi mi stavo dando il sonno. Stavano ballando? Sì, ho visto un po' di gruppi e poi mi stavo dormendo, io ho messo a due, ho detto io me ne vado adesso, basta. Niente, non si pagava niente in tribuna, sopra la tettoia stava benissimo. Ehi, Fra, ma Diciamo che stamattina è andata male, sembrava una presa in giro, stamattina la pioggia e stasera si è messo il sole, ma dimmi tu, ha fatto perdere una barca di soldi a tante persone. Sì, vabbè, ma perché hanno fatto la calvaccata, viene pagata lo stesso, capito? No, l'hanno bloccata, alle 11:05 l'hanno bloccata. Quindi? Le stavo seguendo a videolina io, hanno detto che veniva bloccata per l'acquazzone che c'era, ma per una pioggia si vedeva, nei gruppi non potevano continuare, se no si rovinavano i vestiti, perché c'erano colori fatti a mano e cose, i vestiti, capito? Lo so, infatti forse anche per quello. Ma dico, chi li paga questi? Sono pagato del turismo. Infatti, Bruno, anche se li pagano lo stesso, capito già, ti voglio dire. Vabbè, ma tu pensa a tutti i bar, ristoranti, tutte le bancarelle che vendono panini, eccetera, eccetera. Avrebbero venduto tre volte di più se ci fosse stata la Spilatti. Ma ti posso dire, stasera la bancarella era piena, facevano i panini, c'era stata con la gente, e poi la gente faceva la pesce, arrosto, carne, tutto era pieno. Infatti si sono ripresi, perché molti se ne saranno andati, quando hanno visto quell'acquazzone, molti hanno bigiato ribidi, hanno bigiato tutti e se ne sono andati, perché molte bancarelle fanno così, come vedono che piove, per evitare di bagnarsi la roba, e se ne vanno. Beh sì, quello sì, è un casino, vabbè. A noi ci ha rovinato una manifestazione, rinviata la settimana scorsa perché pioveva, perché doveva piovere, fatta questa settimana, stamattina, non so se qualcuno è andato ai punti, c'era una corsa all'anello, tipo quella che si fa con i cavalli, no, con la spada, però fatta con una Vespa, non so se ne avete mai viste, fino alle 11 c'era tempo brutto, poi ha rimediato un po', si è potuto fare qualcosa, ma ormai la manifestazione era rovinata. Io non lo so se... che tempo ha dato domani le previsioni, mi sa che domani era dopo nuvoloso, però pioggia non ce l'hai segnata, poi non lo so, non se ne capisce più niente di questo tempo qua, capito? Ma di punti festa c'è? Non lo so già, perché io non ci sono sceso. No, stamattina di punti a fare il carro avevamo noi, la nostra associazione, una manifestazione che era la gara dell'anello in Vespa, tipo quella che fanno con i cavalli, che deve infilare la spada nell'anello, noi la facciamo in moto, però fino alle 11 non c'è potuto fare niente perché pioveva, poi si è rimediato qualcosa, ma ormai la cosa era rovinata. Vabbè, la giornata era andata così, un casino, vabbè. Io no, io ho visto quella dei cavalli, anche a Porto Torres la fanno, la gara dei cavalli via mare, dove c'entrano gli anelli con la spada così. Quella è la prima cavalla, noi le facciamo le veste. Cava. Vabbè. Andava. Quindi è andata male. Tu c'eri, dovevi gareggiare anche tu? No, io non ho gareggiato, sicura. Infatti che quando vedo che c'è molta acqua, io la moto a garage, non si sa mai di pigliare un freddo. Cosa fate? Cioè, vi mettete in piedi sulla moto per entrare la spada, così? No. Si va in due sulla Vespa, quello di dietro che ha la spada, se no non potreste farlo, cioè potreste farlo in piedi tenendo il manubrio con una mano, ma ne verrebbe pure una cazzata, allora sono seduti in due e quello di dietro la spada. Ho capito. Sì. No, infatti mi stavo chiedendo come facesse, cioè ti svirgola appena il manubrio e dici braccareggia. No, è una cosa. Un po' di anni, ma sai, si fanno tante manifestazioni. Va bene, ragazzi, io acceso, sì. Sto per entrare in garage, dunque tra un po' non mi sento più, devo smontare l'antenna, se no faccio la fine dell'altra volta. Sono entrato in garage con l'antenna piazzata e me ne ha stracciato tutto e mi ha graffiato la capotta. Ne vado in ascolto per un attimino, dopodiché vi saluto e ci sentiamo un'altra volta. Ciao a tutti. Ciao Bruno. Io te l'ho fatta comprare in bassa l'antenna per quello. me ci tocca lo stesso. Vabbè, questa sarà bene, per cui quando sei in garage è chiaro che non so se ti è capitato di dirtelo, ma sono entrato in garage, ha già stato atterrando, sono entrato dentro, c'è un casino, guarda cazzo, non mi ha grattato tutta la cappotta. Già me l'avevi detto, Sibu. Vabbè, succede, dai, a me mi era successo nel parcheggio di Luna e Sole, nel parcheggio della Conad lì. Stavo scendendo giù e mi sono dimenticato la Turbo 2001 che è molto più alta, sento tra io ce l'avevo attaccata al tettuccio, no? Non è che c'è stato, a te al limite che si stacca la base, ma se ti distratta la cappotta si è staccata dalla base perché con la magnetica, però come ha tirato le vesti, come è caduta sulla cappotta, la serrata ha fatto camminare. Sono film che ho già visto, non ti preoccupare, è successo anche a me andando al Ghero, con la Turbo 2001 mi si è staccata e mi ha graffiato la cappotta e non solo graffiata, anche ammaccata dietro, due ammaccaturine piccole però ci sono. Avanti Franco. Quindi Bru stai facendo in QRT Caragama, via. Un casino sono queste antenne. Attenzione amici, vi ascoltate ancora? Sempre ti ascoltiamo, forte e chiasso. Positivo, dai. Ma lo scarico quando devi fare? C'è un po' da testa qua. Cioè, ma anche oggi lavora? Andare. Franco, va. Non ho capito che c'è, non si capisce niente con la radio. Siamo amico, dai, qua, Duilio, dai, vedo niente, la parte mia. No, capisco già io, vedi tu se lo capisci. Io già lo capisco bene, a me mi arriva benissimo. Duilio, da Fredanieta ti ha detto. Ciao Duilio, buonasera, ben entrato per la premiera. California da questo. Positivo, dai, ciao California, la radio non è mia, dai, la sto fanno, ma non so regolarla, capito? C'è troppo ecco, cioè già si capisce, ma non è che sia una radio bella, ecco, con quello che ti voglio dire. Allora dovrei abbassare appena appena il mic key. Duilio, abbassare appena appena il mic key. Ora non posso dire come tu qualcosa. Io ti sento sempre bene, la verità, però non lo so, forse Franco ti sta ascoltando col K e ti ascolta male per quello. Io ho passato qualcosa, non si è toccato giusto. Aspetta che provo con l'altra radio, perché sto usando una radio professionale e non è che ti ascolto molto bene. Il segnale è buono, 59+20, però la radio non mi piace a me questo tipo di radio. Vabbè, già, se tu ascolti bene è possibile che a me mi arriva così. Adesso provo col baracchino che non l'ascolto. Ok, dai, questa è la riprendi. Io l'ho ascoltato col 3009 Adesso pilotto l'altro, dai. Scappa. Sì, è forte la radio, ma si sente chiara, non c'è problemi. Io l'avrei abbassata appena, ma che ne ha, quanto ce l'hai? Non saprei quale sia il MacKey, capito? C'è scritto? Qua c'è una mascherina modificata qua. Che apparato stai usando? Tanti pomelli, dai, tipo il 3009. Ci deve essere anche quello del MacKey, abbassalo appena. Perché se tu lo capi, di chi ha apparecchi professionali non ti ascolta bene, capito? Invece chi usa il baracchino ti ascolta normale. Ora un po' adesso va meglio. Prova. 1, 2, 3, prova, gala. Adesso sei un bombò. Non sono amico California, si mi ascolta meglio adesso, dai. Fase positivo, modulazione super 5, la radio va benissimo, adesso ti ascolto bene, non problem, non so tu come mi stai ascoltando con le coordinate, vai cambio. Arrivi bene con amico Gianni, dai. Io sto utilizzando un marachino adesso con un microfono un Tanner più 3 da tavolo. Arrivi benissimo amico, non ci sono problemi. Fase positivo, dai, riprendi già. Vabbè, io volevo attaccare il Galaxy perché questo garage, questo qui, già c'era il microfono che raschiava, perché era un po' di tempo che non lo stavo usando e gli ho dovuto mettere lo spray. E non vorrei che anche il garage poi si blocchi, cazzo, perché se usi sempre uno, poi fra la fine, già lo sai che come si rovinano. Eh beh, ma ti conviene accenderlo, perché altrimenti anche quello si rovina. E in definitiva sì, già, capito. Tutto lì. Io sono molto amico di, non so, lo conoscete, ma si chiama Bulldog, non so, lo conoscete, capo. Cala di positivo, sì sì. È positivo, dai, è un mio amico quello, Cappa, cappa. Sì che lo conosciamo a Massimo, carissimo amico Massimo. Cala di positivo, è caduto una cipre, Danita? È positivo, dai, sono qua dove c'è l'ex Ocean, dai. Ecco, capito, sì sì. Gaba gaba. Gaba gaba di positivo. È così, capito? Diceva se funziona ancora. La parecchia da combattimento, cambio. Senti questa piccola modulazione dalla città di Sassari che chiama Brico, Brico, Brico, Brico. Tipo la Sagosa, ecco, l'amico, quello l'amico proprio, sì, Massimiliano lo conosco bene, dai, lo conosco bene, Massimiliano Bulldozer, addirittura l'ho battezzato io, ha copiato l'amico. Positivo, dai, scusa un attimino se magari manco e sto mangiando, Ma Massimiliano l'ho battezzato io, l'ho dato io il nominativo. Positivo, dai, un mio amico lui, Vabbè, già lo so, gli piacciono queste radio Massimiliano. Ne aveva parecchie, molte le ha vendute e adesso ce n'è qualcuna, ma non l'ho più sentito già da un po'. Avanti, Franco! Ehi, gappa, gappa! Non mi trattengo, fra un po' chiudo già, se ci sei riprendo dopo, devo fare alcune cosette, capito? Dai, ti saluto, se coincide a dopo, ciao anche all'altro amico, saluto i miei, ci riascolto le prossime, saluto eventuali SWL, se ci sei già entro più tardi, dai. No, anche io devo portarci il cane, dai, poi deve venire mio figlio a cena, quindi non penso di rientrare, dai. Ci sentiamo, ciao, buona serata, buona carica all'amico, dai. Anche io devo farla la carica, però devo aspettare che venga mio figlio. Adesso ci porto il cane e poi vado a mangiare. Ciao, buona cosa a tutti e due. Ciao Gianni, ce la riascolto alle prossime, ciao salutoni anche all'altro amico. Ciao a tutti, per me QRT. Positivo, dai, ciao amico California, ciao Gianni, dai, le prossime, adesso io scarico un po', va, sgancio e parto via, dai, alla prossimina, capa. Ciao Duilio, ciao, buona carica qua e buon trabacco, dai, ci sentiamo. Ah, parlo, dai, ciao.